9 in punto, la versione di Oscar. Oscar Giannino dallo studio torna a salutarvi e a introdurvi in questa prima metà che dedichiamo oggi ai temi del G8, ma la prima metà la dedichiamo a ciò che ha fatto esplodere la crisi finanziaria, cioè la credibilità, l'efficienza del sistema di intermediazione finanziaria. Le banche, non solo le banche a dire la verità, ma soprattutto le banche. E lo facciamo avendo un ospite di eccezione che passo a presentarvi, Piercarlo Gera. Buongiorno Gera. Buongiorno. Ecco, Gera è per presentarla agli ascoltatori, nell'ambito di Accenture, che è uno dei più grandi colossi dell'advisory, cioè questi grandi gruppi che prestano consulenze organizzate strategiche ai grandi gruppi e in questo caso quindi alle banche, lui ha la responsabilità mondiale della strategia proprio nell'ambito del financial services. E in questo ambito Accenture e Piercarlo Gera come coordinatore sono freschi di una indagine che hanno condotto coinvolgendo i vertici delle più importanti banche del mondo per capire dove sta andando il modello dell'intermediazione bancaria, cioè che cosa bisogna concretamente aspettarsi dai nuovi piani industriali delle banche, cosa faranno le banche, faranno meno dei venditori di prodotti finanziari, quelli che hanno creato ad alta leva l'esplosione della crisi con il fallimento di Lehman Brothers, e torneranno al modello di banca tradizionale, cosa bisogna attendersi? Dico solo agli ascoltatori che trovate sui giornali di oggi i resoconti dell'ABI, l'assemblea annuale dell'associazione delle banche italiane, con due interventi ieri che hanno per così dire invitato i banchieri a voltare un po' pagina, sia il ministro Tremonti che ha invitato le banche se vogliono un regime fiscale meno pesante sulle perdite dei loro prestiti a fare una specie di moratoria delle rate degli impieghi finanziari che fanno alle imprese, e ci sarà subito la prossima settimana un incontro con Confindustria su questo, ma dall'altra Draghi, il governatore della Banca d'Italia, non ha lesinato le critiche sia sulle commissioni che le banche continuano a praticare ai loro clienti, il massimo scoperto, sia sulle condizioni della remunerazione dei manager, che è un altro dei grandi punti al centro della crisi, dicendo che le banche italiane su questo sono ancora indietro rispetto alle indicazioni della Banca d'Italia, sia sull'organizzazione del sistema della raccolta del risparmio amministrato in Italia. Voi sapete, in Italia le SGR sono al 95% delle banche, negli altri paesi ci sono molti più intermediari non bancari. Questo è lo sfondo, ma con Gera vediamo di capire una cosa. Quali grandi tendenze in questi 20 minuti in cui approfondiamo, innanzitutto da presentare agli ascoltatori, dai vertici dei grandi istituti bancari, cambierà davvero questo modello bancario e in che senso? Sì, noi abbiamo cercato di capire nello scenario globale che cosa succederà. Abbiamo percepito innanzitutto che a livello globale potranno operare circa 5, 6, 7 grandi operatori che svolgeranno attività a tutto campo, quindi parliamo per esempio di HSBC, Santander, eccetera. Diversi altri gruppi si concentreranno su strategie più regionali, quindi regionali intendendo sempre attraverso paesi limitrofi, e molti altri operatori si focalizzeranno maggiormente sul mercato domestico, quindi la strategia di banca globale sarà per pochi. Grande attenzione sulle gestioni di territori limitrofi, per esempio sicuramente a livello europeo. Per quanto riguarda il come competere, il ROE, che è un indicatore di redditività delle banche, ha avuto una media dal 2000 al 2007 per i principali 20 gruppi del 26%, e prevediamo che calerà al 4%. Verso il 2009-2010, a seguito di tutto quello che stiamo vedendo, quindi dell'esigenza di maggiore capitalizzazione, dell'esigenza di ridurre l'indebitamento, l'effetto leva, del maggiore costo del funding, dei maggiori accantonamenti. Allora abbiamo cercato proprio di capire come ristabilire una redditività e se è possibile arrivare a un 15% di redditività dopo la crisi, e la risposta è sì, si può arrivare a patto di avviare una serie di interventi strutturali abbastanza pesanti. Ecco, naturalmente la interrompo solo per dire, il pubblico che ci ascolta, dove sono molto numerosi i piccoli imprenditori che lamentano le restrizioni di credito di cui si è parlato anche ieri all'ABI, hanno una impressione che per recuperare la redditività, io ricordo il ROE medio in Italia non era così alto, 26%, però era quasi il 15% e comunque cadrà anche lì al 4%, quindi la redditività delle banche quest'anno casca molto, e gli imprenditori, le famiglie hanno l'impressione che per recuperare la redditività le banche che restringano semplicemente ai cordoni. Invece la ricerca cosa dice? Quali indicazioni ci dà su come recuperare la redditività? La ricerca evidenzia che le banche si polarizzeranno tra aziende vincenti e aziende perdenti, per cui le aziende vincenti manterranno sicuramente il proprio ruolo di sostegno all'imprenditoria locale, anzi grande attenzione a porre il cliente al centro del proprio modello di business. Si andrà sempre più verso un modello che attira il cliente a scegliere la propria banca, non tanto che spinge i prodotti, non tanto che la banca che spinge i propri prodotti verso la clientela. La banca cercherà di lavorare alla semplificazione della propria offerta, la banca lavorerà molto di marketing, sicuramente non potrà fare a meno per quanto riguarda la componente finanziamento, del valutare attentamente il merito creditizio. La capacità di selezionare il credito sarà una capacità importantissima, le banche stanno affinando la propria strumentazione a supporto di questa capacità. E pertanto continuerà a servire il segmento dell'imprenditoria, però sempre nel rispetto della doverosa valutazione del merito creditizio. Senta, tradizionalmente nel settore bancario a livello mondiale, insomma, quando le cose vanno male, come in tutte le imprese, una delle tradizionali voci di intervento immediato quando il manager deve tentare di limitare le perdite è quella di tentare di ridurre i costi il più possibile. Però in Italia la specificità del nostro sistema, il settore bancario come tutti gli altri, è che naturalmente il manager non è che possa molto facilmente buttare migliaia di persone per strada, sto parlando dei dipendenti. Quindi in Italia cosa attendersi nelle aree di limitazione dei costi di gestione delle banche? Lei cosa si aspetta? Sì, sicuramente in Italia esistono maggiori vincoli, però la nostra valutazione è anche che esistono tutta una serie di prodotti e servizi bancari che sono ancora sottoutilizzati rispetto ai mercati stranieri, per cui esiste un potenziale maggiore lato ricavi. In Italia bisognerà lavorare molto sulla componente ricavi e gestendo la posizione di costo nei limiti di quanto possibile. Per quanto riguarda i costi, credo che sia importante lavorare molto sulla distribuzione e sviluppare i canali diretti, quindi internet, contact center, dove l'Italia è sicuramente più arretrata rispetto a altri paesi. Altri paesi, penso anche l'Europa, non solo gli Stati Uniti, vedono in questi ultimi anni intervenire con una certa forza nel mercato, soprattutto nella fascia dei servizi finanziari di base, alle famiglie, al consumo, dei soggetti non bancari. Penso per esempio alle catene di grande distribuzione come Telco in Gran Bretagna, penso agli operatori telefonici. Penso in taluni casi a quelle poste pubbliche ex monopoliste che diversificano nei servizi finanziari. Capiterà qualche cosa di simile anche in Italia? Sì, lei ha molto ragione. In effetti in molti mercati esteri soggetti non storicamente bancari stanno guadagnando quota di mercato, in particolare in questo momento di crisi. In Inghilterra, come ha menzionato, Tesco è sicuramente l'azienda vincente in questo momento, sfruttando la crisi che colpisce i grandi gruppi. Anche in Italia finora si è fatto meno, però BancoPosta ha stato un enorme successo, diciamo un'azienda che ha guadagnato notevoli quote di mercato in poco tempo. Penso che ci sarà un interesse sicuramente da parte di pochi operatori della distribuzione. Sicuramente potrà anche svilupparsi una maggiore presenza di operatori di telefonia. All'estero, per esempio, stiamo lavorando con grandi operatori della telefonia proprio per entrare nel settore bancario. C'è un ascoltatore che ci pone un problema, mi pare, su un tema che non abbiamo ancora trattato. Francesco da Novara, prego. Senta, io ho lavorato per tanti anni nel settore bancario, ho visto tutte le ristrutturazioni possibili e immaginabili, nessuna ha prodotto mai una riduzione dei costi ma degli aumenti. Io ho questa idea, secondo me le banche italiane sono tutte, hanno un management autoreferenziale, cioè non risponde a nessuno, il sistema delle popolari è noto. Gli altri grossi manager bancari italiani, si sa, hanno una commissione stretta con la politica, per cui possono fare tutto il contrario di tutto. Guardate quello che è successo in Italia, non ha risposto un solo manager, non è saltato un solo manager. In una grossa banca addirittura dopo un danno notevole è stato riassunto con un profilo più basso in un altro settore. Allora io vengo proprio al nocciolo della questione. In Italia la banca dovrebbe tutelare il credito e il risparmio, lo dice la Costituzione. Invece questo non avviene, perché la banca ormai mira esclusivamente al profitto. Le banche italiane si sono salvate solo per un motivo, non perché le banche americane sono più stupide, perché le banche americane hanno pagato lo scotto mantenendo le perdite su se stesse. Le banche italiane non sono state sui risparmiatori, come il caso Parmalat e altri. Io toglierei prima di tutto le stock option per le banche. A me le banche ricche, che le banche abbiano i forzieri pieni e l'economia pianga, non mi piace. La seconda cosa, quando un manager bancario sbaglia deve andare a casa, ci deve essere un sistema che permetta quantomeno nei board delle banche anche un cursus honorum. Questa è la mia. Grazie Francesco. La interrompo perché lei pone un problema. La struttura proprietaria di controllo del sistema bancario italiano, che è diviso in tre grandi livelli, lo ricordo a chi non è uno specialista: noi abbiamo il sistema frazionato sul territorio, che ha ratios patrimoniali molto elevati, delle banche di tipo cooperativo, credito rurale, quello che resta alle casse di risparmio. Poi abbiamo il segmento più elevato, le banche popolari, dove sono i soci col voto capitario a controllare, per così dire, le banche, ma con manager molto forti rispetto a questi soci frazionati. E poi abbiamo il livello più elevato, le grandi banche del consolidamento dell'ultimo quindicennio, dove i soci più forti, le fondazioni, è un tipo di socio che esiste solo in Italia, sono a metà tra il pubblico e il privato, e quindi la sua tesi è anche in quel caso i manager sono troppo forti rispetto ai soci, quindi sono autoreferenziali. Questa analisi è un po' forse cattivella, Gera, ma che cosa attendersi dal modello di governance delle banche? Come sarà indotto a cambiare? Ma il modello di governance delle banche sicuramente diventerà più articolato in materia di gestione dei rischi. Io quello che vedo è che molta autocritica nell'aver considerato i rischi in maniera non integrata attraverso i diversi linee di business e attraverso le diverse tipologie di rischio. Quindi vedo una sicura maggiore attenzione sul tema del controllo degli stessi. Vedo anche una grande attenzione alla semplificazione delle strutture, e sono invece incoraggiato, almeno rispetto ai più recenti sviluppi, dal rilevare una sempre maggiore collegialità nei processi decisionali. Senta, in merito alle retribuzioni, le cosiddette stock options, cioè gli strumenti di remunerazione straordinaria che incentivano i manager ai risultati di corto termine, lo short term, le trimestrali, quelle del modello anglosassone, quindi a gonfiare gli utili, a tenere bassi gli accantonamenti patrimoniali, qualcosa si è messo in moto. Nella dichiarazione finale del G8 di oggi c'è un riferimento a questi nuovi principi, le cosiddette legge framework, in cui anche la retribuzione dei banchieri sono invitate a diminuire, per così dire. Però oggi sul Financial Times c'è un bellissimo commento, pagina 9, che dice: Big banks look to remake it again, cioè le grandi banche sperano che tornino i maghi della pioggia degli utili a doppia cifra delle grandi stock option. In realtà la verità sta nel mezzo, Gera. Lei cosa dice? Cambierà davvero la struttura di questi strumenti di remunerazione straordinaria? Ma io credo che sicuramente va introdotta molta maggiore moderazione rispetto al passato. Ritengo però che le banche siano un soggetto imprenditoriale, cioè permette un'analogia col settore farmaceutico. Lei è sicuramente nel settore farmaceutico, un imprenditore deve operare secondo trasparenza, comunicando molto chiaramente le caratteristiche del prodotto, però nessuno si scandalizza se le aziende farmaceutiche ottengono del profitto. Credo che il mestiere di banchiere sia di essere un imprenditore bancario che faccia il proprio lavoro secondo le regole, evidentemente, credo che vada incentivato nel proprio mestiere senza eccessi. E senza che lo Stato gli dica poi dall'alto cosa deve e cosa non deve. Abbiamo un ascoltatore, Danilo da Vercelli. Ci dica, Danilo. Buongiorno. Senta, rifacendomi un po' anche a quello che ha detto Tremonti il 6 marzo a TG1 e agli studi di alcuni economisti, penso che, e anche la storia insegna questo, che questo è il momento di una moratoria del debito innanzitutto, e mi pare che al G8 un accenno a questo sia stato fatto. E poi un passaggio importante potrebbe essere quello di riportare le banche alla loro funzione principale di intermediazione di credito e non di produzione di denaro, che tra l'altro viene fatta senza alcuna copertura. E grazie Danilo, mi tocca spiegare anche a chi ci ascolta che quando le dice produzione di denaro, ovviamente chi ascolta dice no, come il denaro lo producono solo le zecche e i governatori delle banche centrali o i ministri del tesoro. No, perché attraverso la finanza ad alta leva tutti i derivati trattati over the counter, cioè fuori dai mercati controllati, erano massa monetaria al di fuori del controllo delle banche centrali. Questo dicono gli economisti a cui lei si riferiva. Quest'idea della moratoria è un'idea che alle imprese piace, quella lanciata ieri da Tremonti, ma certo è un po' delicata, perché significa dire alle banche, soggetti privati come ci ricordava Gera, da adesso in poi se volete tasse più basse voi per favore sospendete la richiesta degli interessi ai prestiti delle imprese. Lei che dice? È un'idea un po' troppo dirigista, Gera? Ma è un'idea che va diciamo sicuramente esplorata. Credo che sia obiettivamente troppo dirigista nel rispetto di quelli che sono anche le missioni come impresa delle aziende bancarie. Ma le banche italiane hanno ragione o torto nelle graduatorie comparate a dire che sono tassate di più? Io lo dico perché ricordo sempre che Unicredit ha pagato l'11% di tax rate reale nel 2008, io il 53%. Ma quell'11% è davvero più elevato delle banche concorrenti negli altri grandi paesi, Gera? Esistono delle componenti di tassazione che sono obiettivamente uniche nel mercato italiano. E quindi questo, diciamo così, le legittima a chiedere questa cosa. Io personalmente, Gera, ritengo che certamente la leva fiscale meno pesante verso le banche le può aiutare ad avere impieghi più estesi nei confronti delle imprese, però le imprese pagano molti punti in più. In conclusione, proprio gli ultimi 20 secondi che le chiedo, è ottimista su come il sistema bancario a livello mondiale da questa ricerca che avete appena condotto saprà tradurre questi nuovi impulsi in un meccanismo più efficace di sostegno alle economia reale? Ma io vorrei riprendere le parole del governatore al termine delle proprie considerazioni finali sul 2008, che ha detto: la fiducia non si ricostruisce con la falsa speranza, ma neanche senza speranza. Uscire da questa crisi più forti è possibile. Io credo di sì, di nuovo non in maniera indiscriminata. Il mercato avrà alcuni vincenti, alcuni perdenti, e ci aspettiamo quindi una grossa ristrutturazione da parte di quei gruppi che avranno la forza di avviare tali programmi. La ringrazio molto. Eccoci tornati in studio per questa seconda parte che oggi dedichiamo ai temi del G8. Stamattina l'agenda del G8 si apre al confronto del cosiddetto G8 più G5, quindi si apre ai temi della cooperazione mondiale. Al centro dell'agenda vedere se davvero non si riesce a chiudere anche con Cina e India. Sapete che Hu Jintao è dovuto rientrare a Pechino, quindi è assente su un punto delicato, quello del clima. E poi c'è l'agenda della impegno, del conferma degli impegni sugli aiuti allo sviluppo, in particolare all'Africa, quindi la giornata internazionale. Noi abbiamo in collegamento dall'Aquila l'inviato di Radio 24, Vincenzo Miglietta. Buongiorno Miglietta. Buongiorno ai nostri ascoltatori. Ecco, facciamo un approfondimento su questi temi della mattinata? Sì, praticamente partiamo dal fatto che oggi vi saranno una serie di incontri bilaterali. Ieri vi è stato il G8 per eccellenza, oggi vi saranno degli approfondimenti tra i vari e grandi leader, vi sarà poi l'apertura, l'allargamento ai paesi possiamo dire in via di sviluppo, ma che sostanzialmente ormai rappresentano quasi il 50% del PIL mondiale, i grandi paesi esclusi formalmente dal G8, ma che ormai tutti auspicano il loro ingresso. Parliamo di Cina, India, Brasile, Messico, quindi paesi importanti sotto l'aspetto economico, ma paesi importanti sotto l'aspetto, ne parlavate prima da studio, sotto l'aspetto del loro impatto, della loro crescita economica sull'ambiente. Quindi sappiamo le resistenze che questi paesi stanno offrendo all'abbattimento dell'anidride carbonica entro il 2050, la CO2 entro il 2050. Logicamente un abbattimento di queste emissioni vorrebbe dire compromettere i loro attuali ritmi di crescita, con tutte le ricadute anche sociopolitiche sui rispettivi paesi. Quindi oggi si parlerà sicuramente ancora di questi aspetti, e poi entra prepotentemente nell'agenda del G8 anche il capitolo Iran, con tutto ciò che ne consegue, quindi non proliferazioni delle armi nucleari. Ricordiamo l'importante intesa di qualche giorno fa tra Stati Uniti e Russia, e quindi gli argomenti sul tavolo sono molti, e sullo sfondo resta comunque comune denominatore la crisi economica. Le soluzioni per uscirne, probabilmente questi paesi emergenti possono dare il loro contributo, la loro grande aggressività sui vari mercati, ma certamente le regole internazionali devono essere riscritte dai paesi che hanno maggiore esperienza sotto l'aspetto economico, quindi puntare a regole globali standard per i grandi organismi internazionali, che probabilmente non hanno controllato quanto avrebbero dovuto negli anni che hanno preceduto la crisi economica. Senti, posso farti una domanda diretta che riguarda i colleghi stranieri, visto l'impatto che ha avuto la componente di critica dall'estero sull'attuale conduzione del governo italiano? Sappiamo tutti ormai di ciò che ha detto Guardian, del New York Times, del fatto che ieri Obama ha detto no, è forte la leadership italiana, ma tra i colleghi stranieri che impressione c'è, parlandoci fuori dall'ufficialità? Sì, devo essere onesto che per una volta vorrei difendere poi l'organizzazione italiana, perché al di là di quanto ognuno di noi deve essere obiettivo, mi sembra che ci sia sempre un impatto un pochino... Cioè, tradotto, ti aspettavi anche tu un livello di efficienza non come quella che hai constatato, no, che è buono? Onestamente mi è sembrato un livello di efficienza adeguata all'avvenimento, e mi sembra che da parte di alcuni colleghi stranieri vi sia sempre un pochino questo atteggiamento verso gli italiani, brava gente, ma che poi alla fine probabilmente non sanno organizzare le cose come andrebbero fatte. Invece le cose almeno ieri sono andate molto bene, e poi anche i colleghi stranieri, l'avrete letto sui quotidiani di oggi, si sono buttati a capofitto, come si suol dire, sui gadget regalati per l'occasione alla stampa. Questo è il difetto di noi giornalisti. Che abbiamo noi giornalisti italiani, ma che forse poi si vede è comune alla categoria globale. Quindi si cerca di fare le critiche su alcuni aspetti e poi magari ci si comporta come gli altri in altri. Grazie. Quindi, a Vincenzo Miglietta, e buon lavoro. Mi tocca aggiornare dalla serie critiche della grande stampa internazionale. Oggi il Financial Times accusa l'organizzazione italiana del G8 accoppito all'Aquila di aver predisposto un sistema di canali riservati di ascolto delle riunioni riservate del G8 che consentirebbero all'Italia e ai suoi servizi di tenere registrate queste cose. C'è già una smentita ufficiale del portavoce di Palazzo Chigi. Ma passiamo a una visione un po' più seria di come valutare gli impegni del G8. Abbiamo con noi il professor Mario De Aglio. Buongiorno De Aglio. Buongiorno. Ecco, lei oggi firma un commento sulla stampa che, per così dire, invita alla prudenza nei confronti degli impegni un po' roboanti che vengono da meeting di questo tipo. Forse bisognerebbe un po' abbassare le aspettative, o mi sbaglio, perché i problemi di coordinamento della domanda mondiale, nuove regole da scrivere, criteri condivisi, contemporaneamente gli aiuti allo sviluppo, la lotta contro il clima, è un po' troppa carne al fuoco, no? Ah, sì, bisognerebbe prima di tutto ricordare lo status giuridico del G8, che è nullo. Non è altro che una riunione, diciamo così, volontaristica dei capi di Stato e di Governo dei paesi interessati e dei loro aiutanti, i quali firmano un documento che è una dichiarazione di intenzioni, cioè loro si adopereranno per fare queste cose, cioè tante buone parole. A confronto di questo, l'accordo russo-americano dell'altro giorno firmato da Obama è già qualcosa di più, perché qui abbiamo un Presidente degli Stati Uniti che mette la firma sotto un documento che poi dovrà essere approvato dal Congresso, eccetera. Ma qui i presidenti mettono la firma sotto nessun testo, sotto semplicemente delle intenzioni. Wishful thinking si chiama con una parola inglese, quindi forte tentazione di dare obiettivi in pasto alle opinioni pubbliche che poi non vengono tradotte nei fatti, ed è questo quello che puntualmente avviene per le percentuali molto elevate di aiuti allo sviluppo. Ricordo impegno portare allo 0,50 il PIL, noi in Italia siamo allo 0,11 o poco più, e gli impegni del G8, quello di Gleneagles inglese, verranno puntualmente ribaditi anche questa volta con la promessa che ci metteremo in regola. Io sono molto scettico. Però con lei, professor Deaglio, posso aggiungere una piccola cosa? Siccome poi questi impegni recano sempre la clausola che sono presi in coordinamento con gli altri paesi, ciascun paese ha la possibilità di dire che gli altri non si sono coordinati. Non c'è dubbio. E io con lei volevo qualche riflessione intorno al nocciolo della questione della ripresa possibile. Vediamo in che tempi. Ieri il Fondo Monetario ha per l'ennesima volta riaggiornato le previsioni. È vero, è passato dal contenere la restrizione del PIL planetario quest'anno invece che al meno 1,9 al meno 1,4, però per noi europei e per noi italiani la prospettiva per l'Unione Europea è quella di una pressione di un peggioramento ulteriore, più del 4% riperta quest'anno, l'Italia il 5%. Ecco, viviamo in un mondo in cui oramai dipendiamo dal contributo alla ripresa della crescita del PIL planetario dei paesi emergenti, non solo della Cina, ma soprattutto dei paesi emergenti. In questo contesto, quando si dipende da loro per la ripresa della crescita, come si fa a chiedere a loro impegni diversi? Faccio un esempio. Come si fa a chiedere ai cinesi contemporaneamente di trainare e dall'altra di rivalutare la loro moneta? Lei che dice? Forse qui si può dire che la ripresa cinese soprattutto è strettamente collegata alla domanda interna per una volta, e cioè i cinesi hanno messo in atto un piano da 500 miliardi di dollari, cioè lievemente di più di quello degli Stati Uniti, per infrastrutture, ricostruzione dopo il terremoto, eccetera, insomma tutti gli investimenti nell'economia reale. Di tipo investimento. In più hanno messo in atto una serie di misure che dovrebbero aumentare i consumi, per cui la ripresa cinese dovrebbe avvenire con un motore interno. Va detto anche che si appoggerà prevalentemente sull'industria cinese e degli altri paesi dell'area del sud-est asiatico, quindi in tasca a noi ne verrà pochissimo. Uno dei temi su cui il governo italiano e soprattutto il ministro Tremonti più ha puntato è questo che si definisce il Lecce Framework, cioè questo documento di 72 pagine mai reso noto, in cui ci sarebbero le direttrici per accordi condivisi tra i grandi paesi del mondo, insomma tra l'area europea e americana soprattutto, per come pensare ad architetture di vigilanza e supervisione finanziaria più o meno comuni, non lo stesso modello ma insomma analoghi, a criteri contabili per redigere la parte patrimoniale delle banche, anche lì un po' comuni e non diversi come erano prima, ad alcuni grandi obiettivi, per così dire, che rendano la finanza meno a rischio, meno a leva e più etica. Ecco, rispetto a questo, Nobel Paul Samuelson ha appena elogiato sulle agenzie queste nuove norme sull'etica che vengono richiamate nel comunicato del G8. Ma è così oppure semplicemente questa è fuffa, chiacchiere, poi in realtà lo schema della riforma della regolazione gli americani se la fanno da soli in America, già presentata in Congresso, e l'Europa dice ma non riesce a fare nessuna supervisione sulle banche in Europa? Lei che dice? Ah, io dico questo, che sul piano dei principi siamo tutti d'accordo, il fatto di aver introdotto l'etica è un salto importante, mentre prima si pensava che il mercato in fondo dell'etica non aveva nessun bisogno. Quando poi si scende alle cose pratiche, il vero problema qual è? È di capire se gli Stati Uniti sono disposti ad accettare che un organismo non americano, magari presieduto da un cinese, possa andare a mettere il naso nei conti delle loro banche. E fino adesso hanno detto un sonoro no. Bisogna vedere se di fino avanti cambieranno idea. Io non credo che cambino idea. Devo dire che però anche i tedeschi, penso a interventi durissimi senza precedenti storici che sono avvenuti negli ultimi mesi da parte del governatore della Bundesbank Axel Weber, anche i tedeschi con grande durezza hanno detto ai paesi dell'euroarea, cioè a noi stessi oltre ai francesi, levatevi dalla testa che noi vi diciamo alcunché su quanti asset tossici ci sono nel sistema bancario tedesco, che probabilmente è la parte più malata oggi, il sistema bancario europeo. Quindi vale anche a casa nostra questo principio. Vale anche a casa nostra, direi che vale anche per l'Italia tutto sommato. Le nostre banche contengono una parte dei nostri segreti, prima di metterli tranquillamente a disposizione degli altri ci pensiamo due minuti. Da questo punto di vista qual è il suo giudizio di quello che è stato detto ieri all'ABI? Lei crede a questo schema di moratoria, meno tasse alle banche in cambio del fatto che esse sospendano la richiesta di interessi sui prestiti alle imprese, o è uno schema un po' dirigista, un do ut des un po' singolare? È un do ut des un po' singolare e soprattutto mi sembra di difficile realizzazione, perché in linea generale può anche andare bene, però come si fa poi ad applicarlo caso per caso è molto più difficile. Parliamo di centinaia di migliaia di posizioni di singole imprese che dovrebbero essere valutate, per le quali bisognerebbe in qualche modo riuscire a quantificare il bonus fiscale per poter dire io ti finanzio anche quando non ti dovrei finanziare. Quindi un po' complicato. Eccoci tornati in studio, riprendiamo dove ci eravamo interrotti col professor De Aglio. Lei oggi nel suo commento alla prima giornata di lavoro del G8 dice in realtà questa crisi ci consegna tra le tante cose una direttrice di svolta, di cambiamento. Insomma l'America non potrà più, per ragioni oggettive, pesare nel concerto dell'economia e anche quindi della politica mondiale come pesava prima. E ancora oggi l'America ha un deficit commerciale quotidiano di più di 2 miliardi di dollari al giorno. E questo certo impone un riequilibrio. È verissimo, si vede nei dati. Gli americani, milioni di americani stanno riallineando i loro consumi e la loro capacità di risparmio, mentre prima ovviamente consumavano in eccesso, avevano un risparmio negativo di 5-6 punti, adesso c'è una propensione al risparmio che è tornata a essere 5-6-7 punti rispetto al reddito disponibile. Ma in concreto cosa vorrà dire questo minor peso? Lei ci ha appena detto però gli americani le loro regole se le fanno a casa loro. Poi il commercio mondiale, nonché la maggior parte delle riserve mondiali restano in dollari, quindi gli americani in definitiva possono continuare a dire noi ci facciamo il nostro aggiustamento e poi col dollaro fluttuante voi pagherete i costi, o no? Ecco, in concreto abbiamo due strade davanti. Una in cui gli americani prendono questa posizione dura e questo apre la strada a nuove crisi. Cioè è chiaro che sul momento nessuno può fare nulla, a meno di mettere a rischio le proprie riserve. Certo, i cinesi potrebbero smettere di comprare titoli del debito pubblico americano, ma così farebbero perdere il valore a quanto hanno accumulato in 20 anni. In effetti tra i mesi di novembre e marzo avevano iniziato a farlo, avevano smesso di comprare titoli denominati in dollari. Esattamente, quindi questa è una possibilità, che poi a un certo punto si arrivi a questo e ci sia una grande convulsione monetaria con conseguenze imprevedibili del tipo interruzione dei mercati. Quindi meglio non augurarsela. Meglio non augurarsi. L'altra idea è che gli Stati Uniti, e qualche segnale in questo senso c'è, diano dei messaggi di apertura su questo elemento, quindi accettino una qualche forma di codeterminazione, quindi di associare cinesi e quant'altri in maniera che non è stata fatta finora ad alcune decisioni fondamentali. È difficile dire dal di fuori quale, è difficile dire che compensazioni possono dare gli americani, ma io ne cito una sola che è avvenuta, che è sfuggita credo a quasi tutta la stampa, e cioè 15 giorni dopo il G20 di Londra il presidente Obama ha superato le esitazioni che avevano bloccato questa decisione da parte del presidente Bush per 2 anni e ha autorizzato la cessione alla Cina di 5 centrali nucleari ultimo modello della Westinghouse. Queste da sole faranno un 10-15% dell'energia cinese. Io mi aspetto che dei patti di questo genere o di genere simile si moltiplicheranno in futuro. Senta, in questo braccio di ferro ideale, anche un po' reale a dire la verità, più reale di quello che si immagini, tra gli Stati Uniti da una parte e la Cina su come riequilibrare i pesi, visto che sono la parte fondamentale del traino alla crescita mondiale, noi come europei che siamo esportatori, abbiamo una forte manifattura, penso soprattutto ai tedeschi e a noi, In teoria non avremmo molto interesse a stare dalla parte degli americani, contemporaneamente però, e quindi a chiedere ai cinesi di rivalutare la loro valuta, contemporaneamente però il rischio di assecondare la posizione cinese è per noi molto forte. Quindi in realtà l'interesse europeo come dovrebbe misurare la sua posizione tra USA e Cina secondo lei? L'interesse europeo è molto difficile da definire, anche perché all'interno dell'Europa ci sono posizioni, anche interessi oggettivi molto diversi. Gli tedeschi sono fortemente legati al mercato americano, quindi tutto sommato hanno interesse a non perdere questo aggancio. I francesi lo sono molto meno. E quindi tra i due motori dell'Unione Europea ogni tanto si comincia a registrare qualche dissonanza. In questa situazione l'Europa tende a non prendere nessuna posizione, cioè a fare da spettatore, si illude di fare l'arbitro, in sostanza sta alla finestra a vedere questo confronto tra i due che veramente contano. E questo significa con ogni probabilità, come ha scritto lei stamane, che la possibilità a casa nostra, in Europa e in Italia, di tornare a livelli di occupazione precedenti alla crisi del 2008 si misurerà in anni. A me sembra molto corretto questa maniera, molto onesto dire che occorrono anni. Perché dire anni, professore? Ma dire anni perché noi partiamo da un livello 2009 che è molto più basso di quello che si prevedeva soltanto 6 mesi fa. 6 mesi fa il Fondo Monetario ci accreditava di una caduta del 2,5, poi ce l'ha raddoppiata. Ora, riportare su una caduta del 5, come siamo più o meno adesso, con i tassi di crescita della produttività che abbiamo messo in segno in questi anni, con i tassi di crescita possibili dell'occupazione, non è una cosa facile, soprattutto non è una cosa breve nel migliore dei casi. Quindi dobbiamo prendere questa prospettiva, abbiamo fatto una brutta caduta, speriamo che nel mondo non ce ne siano altre in autunno, insomma, ma in qualche modo qualche cosa è già scontato in queste previsioni che di qui alla fine dell'anno debba succedere. Mettiamoci nell'ottica che dobbiamo rialzarci da questa caduta e fare quello che riusciamo a fare. All'inizio zoppicheremo un po', poi se facciamo le riforme giuste, se ci mettiamo su certi sentieri, ricominceremo a camminare bene. Daglio, quando un paese come capita l'Italia è quello che in ambito OCSE ha la struttura patrimoniale delle famiglie più forti, cioè i dati medici, i dati ci dicono che lo stock patrimoniale delle famiglie italiane è pari all'800% del reddito disponibile annuale, quindi è molto forte, molto patrimonializzato, classicamente il mattone, insomma, di cui le famiglie italiane sono proprietaria in percentuale molto più che negli altri paesi avanzati. Ma quando è così, non significa anche che proprio questo cuscino patrimoniale, che per fortuna abbiamo, che viene sempre ripetuto tutti i giorni, il professor Fortis, Marco Fortis della Fondazione Edison ci dice, siamo quindi in posizioni meno deboli degli altri, ma la mia domanda a lei è un'altra: quando si ha un cuscino patrimoniale così solido, non contribuisce forse anche a rendere meno percepibile la perdita di flusso di reddito disponibile, la perdita di competitività, cioè non diventa una specie di grasso che abbiamo intorno a noi che ci rende meno capaci di capire che diventiamo meno agili e scattanti per scattare alla ripresa come faranno gli altri? Purtroppo sì, su questo grasso abbiamo galleggiato negli ultimi 10 anni, dicendoci che andava tutto bene, che noi eravamo simpatici, bravi, facevamo degli ottimi prodotti, cosa che è sicuramente vera, ma non abbiamo capito che questi nostri prodotti, noi potevamo continuare ad avere insomma un tenore di vita come quello che avevamo, anche perché avevamo questi gradi di patrimonializzazione, quindi non abbiamo avuto gli stimoli in buona parte. Solo adesso cominciamo vagamente ad accorgerci che bisogna correre e quindi forse usare un po' di questo grasso per correre. E da questo punto di vista, e concludo davvero, le chiedo anche a lei un'opinione, questo scambio meno fisco alle banche in cambio di una sospensione unilaterale, una moratoria della richiesta dell'interesse sui prestiti alle imprese, che è uno schema un po' singolare, un po' dirigista, ma viene molto ben accolto da Confindustria, dalle imprese italiane, lo capisco. A lei che reazioni suscita? Con le riserve della complicazione per attuarlo, direi che mi suscita complessivamente una reazione prudentemente positiva, insomma mi sembra una cosa sulla quale di buon senso andare avanti. Un'altra cosa che vedrei bene è una qualche forma di garanzia pubblica o parapubblica su certi prestiti. Cioè, io mi metto dal punto di vista delle banche, ho un'impresa di cui ho davanti il bilancio, le cose vanno male, abbiamo una possibilità che vadano meglio, ma il rischio è aumentato. Io uso denari non miei, ma dei miei depositanti, non posso prendere questo rischio se non ho una garanzia. Se lo Stato o qualcuno, diciamo Cassa Depositi e Prestiti, tanto per non far nomi, mi dà quella garanzia, io il rischio lo corro. Se tutto va bene, la garanzia rimane sulla carta, cioè non implica poi esborso di soldi pubblici. Però forse è meglio che ci sia. Benissimo, io la devo, tempo praticamente è scaduto. Io ringrazio molto della cortesia e dei lumi che ci ha dato Mario Deaglio, uno dei commentatori più equilibrati e anche acuminati come capacità di dominare queste materie così complesse. E vi ricordo il numero di telefono, oggi ahimè ho fatto un po' di violenza agli ascoltatori, 800 24 00 24, e anche il nostro indirizzo che ha avuto qualche problema ma è stato riabilitato, quindi mandateci la vostra mail a 9@radio24.it. Ringrazio in regia Paolo Corleone e Peter Bescapè e in redazione Gloria Guerrera, Laura Faggin. La linea al GR. Mm.